prova, sta. Sta, sta, sta. Perché poi dicono tutti sta? Tutti convocati di Giovanni Capuano e Pierluigi Pardo. L'estate addosso, un anno è già passato, la spiaggia si è ristretta ancora a un metro. Le mareggiate, le code di balena, il cielo senza luna. Prima che il vento si porti via tutto e che settembre ci porti una strana felicità, pensando ai cieli infuocati, ai brevi amori infiniti, respira questa libertà. Ah, ah, ah, ah, l'estate e la libertà. .00240024, siamo qui fino alle 15.30. Prima o poi arriva anche Pierluigi Pardo. Spero più prima che poi. Io non so voi, ma io oggi sono sollevato, perché finalmente ci siamo. Basta partite con le selezioni di valle, con dilettanti, cose assortite che servono a pochissimo. Diciamo la verità, finalmente a questo fine settimana cominciamo ad assaggiare un po' di calcio vero. Anche se le amichevoli di fine luglio, insomma, lasciano il tempo che trovano, però finalmente con questo fine settimana cominciamo a vedere qualcosa. Vediamo la Roma con Real Madrid domani alle 11, poi vedremo il Milan domani con Lione, poi la Lazio, la Fiorentina, la Sampdoria, lunedì, martedì arrivano anche l'Inter, arriva il Bayern, arriva il Manchester City. Insomma, per noi che siamo in crisi d'astinenza da calcio, finalmente si comincia a respirare. 800240024, se volete dire la vostra. Parliamo molto di Juventus oggi, perché è aperto ancora questo grande dibattito se la Juve sia o no indebolita rispetto all'anno scorso. Intanto però si parte domani alle 11, ora italiana, Roma-Real Madrid. Totti. Real Madrid è sempre, non può essere un amichevole, è sempre una partita di prestigio. È normale, non affrontando Casillas, mi dispiace tantissimo, che era anche lui, è stata una bandiera del Real Madrid. Lo ringrazio tuttora perché l'ho conosciuto, è un grandissimo uomo, una grandissima persona, però affrontiamo una delle squadre più forti del mondo e per noi è solamente una cosa bella, una cosa positiva. Domani, ripeto, ore 11 italiane, perché si gioca a Melbourne, in Australia, dove Totti sui cartelloni è stato accolto come The King of Rome, il re di Roma. Oh, poi c'è il giallo delle dichiarazioni di Raiola e Marotta intorno a Pogba. Che cosa è successo? Ieri Mino Raiola, ieri sera, a un'agenzia spagnola ha detto: se vince la porta le elezioni per diventare presidente del Barcellona, Pogba ha ottime chance di andare al Barcellona. Chi lo vuole però deve parlare con me. Questo ha detto ieri Mino Raiola. Oggi Marotta sul Mundo Deportivo dice: no, non si deve parlare con Raiola, si deve parlare con la Juventus. Poi altre cose, frasi che però la Juventus ha smentito. Quindi Marotta non ha mai detto quelle cose. Intanto saluto un abbronzatissimo per Luigi Paolo. Sto perdendo l'abbronzatura ormai. 2 giorni e mezzo di Milano, ma no. Vabbè, però insomma c'è il sole anche a Milano, ve lo segnalo. Sì, fa anche abbastanza caldo. No, non le ha mai dette. I soliti consigli, no? Cercate di uscire nelle ore più calde, sì, evitate frutta e verdura, mangiate invece abbacchio, arrosto, eccetera. Sì. No, non puoi dire queste cose. Ma no, è ovvio che scrive, è una gag. No? È il contrario. No, non le ha dette quelle frasi lì Marotta. Oggi la Juve ci tiene a farlo giallo, sapere. Sì, ci tiene, sì, a farlo, sì, sapere. Sì. Anche perché dette così oggi sarebbero state una dichiarazione di guerra. Sai, Raiola ieri dice questa cosa, oggi Marotta risponde, invece questa cosa non l'ha detta. Però sai che cosa mi è parso di aver capito, Pier, sulla Juve? Che non hanno poi così fretta di prendere il 10. Sì, ma non hanno fretta, fanno anche bene, insomma, anche perché non devono farsi prendere, diciamo, per il collo. La Juve in questo momento ha dei soldi, la Juve oggi rispetto a 2 mesi fa è più debole, ma secondo me ha fatto le cose giuste, cioè ha cambiato, ne parlavamo anche ieri, ha fatto benissimo a cambiare, ha fatto le cose giuste perché comunque Tevez era una scelta di vita, Pirlo era una scelta di vita, è poi un giocatore comunque ormai anziano, perché Vidal sono tanti soldi, quindi secondo me sono tutte scelte che ci stanno da un punto di vista tecnico. Si è mossa subito in anticipo benissimo, a me immagino che ti piace, che dire, parametro zero Lugani, però è chiaro che in questo momento qualche incognita in più rispetto all'anno scorso c'è. Hanno dei soldi, li useranno. Io credo che la Juve non abbia fretta. Però oggi, va bene non avere oggi fretta. Il messaggio che esce, che di tutti quei nomi che leggiamo sui giornali, Goetze, Draxler, Oscar, sì, tutti veri, ma sono tutte trattative molto lunghe, sono progetti da costruire e soprattutto la Juve non ha fretta. Anche se i tifosi sono un po' perplessi, sono un po' divisi. Ieri in tanti ci hanno telefonato anche un po' arrabbiati. Io sono un tifoso della Juventus e invece sono un po' preoccupato almeno dell'ultima cessione che sembra fatta di Vidal, perché è secondo me l'ultimo giocatore determinante che è rimasto alla Juve dopo appunto gli addii già detti prima di Pirlo e di Tevez. 28 anni nel pieno delle sue forze, mandiamo via anche lui. Delusissimo per un motivo molto semplice: continuo a guardare quella griglia delle semifinali della Coppa della Champions League, dove vedo Barcellona, Bayern, Real Madrid e la Juventus, e continuo a vedere la Juventus un gradino sotto queste tre. Si può essere o no delusi per questa campagna? Secondo me no, il tema è qui, lo rilanciamo anche oggi. Secondo 8, me 0, no, 0, 24, ripeto, 0, 0, 24. Ripeto, se la Juve fosse quella di, se oggi fosse finito il mercato, la Juve quest'anno avrebbe fatto cassa essenzialmente, avrebbe ringiovanito, sarebbe mossa bene, magari l'anno prossimo potrebbe avere qualche difficoltà in più a vincere il campionato, anche se poi squadre secondo me completamente all'altezza della Juve non ci sono in questo momento, ma la Juve ha già ipotecato il futuro. Cioè quando tu prendi un giocatore come Rugani, quando prendi Dybala, insomma prendi il miglior difensore e il miglior centravanti che c'erano giovani sul mercato, quindi cioè, Rugani Romagnoli dovrebbe essere la coppia dei centrali della nazionale fra 2-3 anni. Sì, magari non nel 2018 al mondiale, ma forse sicuramente l'europeo, sicuramente 2020-2022, insomma. Quindi secondo me si è mossa benissimo, è una società che ha vinto gli ultimi campionati, quindi può anche permettersi di fare una fase di investimento sull'età, ma secondo me lo sta facendo molto bene. Però io devo dirti che secondo me, se il mercato va avanti così, forse quest'anno qualche anti-Juve la possiamo trovare. Lo chiediamo anche agli amici da casa, 800 24 0024. Chi è l'anti-Juve? La signora anti-Juve, anzi la signora antisignora. Traffico. È un mesetto che non vi sentivo, dopo vado in astinenza, ho bisogno di chiamarvi. Tutti convocati. Tutti convocati. Le squadre italiane l'anno scorso in Europa mostrano che il calcio italiano sta tornando a dei livelli importanti, lo vediamo anche nel mercato. Io da quando sono arrivati anche grandi giocatori, e per un campionato è sempre un termometro il mercato, i giocatori grandi, i campioni che arrivano in campionato, è sempre un termometro importante da seguire. Ecco, ad esempio io tra le anti-Juve, se davvero riesce a piazzare il doppio colpo di Salah e Dzeko, e io la Roma a Pier ce la metto. Sì, ma sai, la Roma è un grande punto interrogativo, perché quel se non è un dettaglio. Sarà Dzeko, i turbe, Totti 20 partite, ancora qualcosa può dare. Squadra che ha ancora della qualità, che poi dovrà vendere, ma che quest'anno potrebbe recuperare un giocatore come Gastan, che l'anno scorso non c'è mai stato, che anche se ha qualche dubbio in più potrebbe recuperare Strootman. Qui il dubbio è perché comunque i due infortuni sono stati prettamente di natura fisica, diciamo tradizionale, quindi qualche rischio in più secondo me c'è. Secondo me, sinceramente, la Roma è un cantiere, e questo se è un se enorme, con una S stra maiuscola. È chiaro che è il progetto di una squadra da scudetto. Falche. Aspetta che coinvolgiamo anche Roberto Cravero. Ciao Roberto. Signor Cravero. Buongiorno. Come stai? Ma questo è un imitatore di Pardo. Buongiorno Cravero. Questo imitatore di Pardo capisce di calcio più del Pardo vero. Ci vuole poco. Senti, ma ti sei spinto in viaggi esotici? Cioè hai abbandonato Venaria Reale per spingerti che ne so, a Piossasco, a Pinerolo, fino a Novi Ligure? Gli tre ci vedremo presto. Noi ci vediamo presto, che dobbiamo fare un po' di amichevoli. Sì, esatto. Ma l'abbiamo detto in apertura. Io sono contento. Perché finalmente dopo i camerieri, le selezioni della Valle, adesso con tutto il rispetto per i camerieri del Teolo, però finalmente da questo weekend vediamo Real Madrid Roma, domani sera c'è Milan Lione, esatto, Lione, lo dico agli amici che hanno scritto prima dicendo Milan Lione. Così è chiaro. No, senti un po' Roberto, esiste un anti-Juve per come si sta disegnando questo mercato? Sì, esiste, ma non ce n'è solo una. No, adesso, a parte gli scherzi, sentivo il discorso di Pierluigi che mi trova pienamente d'accordo. È un grosso sé la Roma, però con quei due giocatori questo grosso sé diventa una grossa conferma, perché sono due giocatori che ti cambiano completamente la squadra, considerando i giocatori che recupera, considerando comunque che avrà un centravanti vero, e quando dico vero con la V maiuscola, che Totti probabilmente non farà, non so se farà 20 partite, ma il Totti l'ultima mezz'ora potrebbe essere determinante, potrebbe anche essere l'arma in più. Tutto dipenderà chiaramente dagli acquisti. A me piace il Milan, mi piace ancora di più l'Inter. Io penso che quest'anno avremo un campionato più duro, più interessante, anche perché meno interessante di quello di livello di anni difficili, No, ma anche perché dico una cosa, cioè in questo momento secondo me la Juve, e adesso da dire la parola che si è indebolita diventa forse un eccesso, però perde molto e i sostituti devono dimostrare di essere all'altezza di quelli che sono andati via, e in questo momento io qualche dubbio ce l'ho. Rispondiamo a questo amico che ci chiede come fate a ignorare che la Fiorentina non vuole che Salah vada a un'italiana. In realtà ci pare di aver capito, la Fiorentina non vuole che vada all'Inter, siccome però con la Roma potrebbe uscire una triangolazione che signor porta Panerai destro però alla Fiorentina, molto favorevole all'ipotesi. No, a parte le battute, però la Roma potrebbe andare. Tra l'altro c'è un precedente, il precedente è Ljajic, ricorderete che su Ljajic c'era una trattativa con il Milan, poi insomma alla fine invece la Roma aveva la contropartita tecnica per Ljajic, alla fine si è trovato l'accordo, i rapporti fra le società sono buoni e secondo me è più semplice, così come è più semplice che Ibra vada al Milan rispetto alle altre squadre, è più semplice che Salah vada alla Roma rispetto che l'Inter, questa è la mia idea. Poi è ovvio che la Roma il problema fin qui ce l'ha avuto perché non è riuscito a fare cassa come avrebbe voluto e come sembrava possibile nei primi giorni di mercato, con una serie di giocatori che hanno mercato ancora in mercati esotici, ma che un conto è aver venduto e un conto è pensare di poter vendere fra un po', e sono soprattutto ovviamente Gervinho destro e lo stesso Dumbia, che sono tre giocatori che la Roma vuole riuscire a vendere. Destro può entrare chiaramente nella trattativa. Sì, Dumbia difficilissimo da piazzare. Oggi potrebbe essere l'ennesimo giorno decisivo per Shaqiri, che vorrebbe dire sbloccare per l'Inter tutto il mercato. Mi sembra buona la prima, Roberto, dico anche a Pier, di Kondogbia invece. Sì, buonissimo. Un giocatore che a me piace tantissimo, era il gemello tra virgolette di quella Francia stratosferica under 20 che vinse i mondiali passeggiando con Dobbia e Pogba a metà campo, giocatore veramente di grande categoria, che gli stranieri più ricchi si sono perso. Giocatore fantastico. Ma sai, 40 milioni Roberto, cioè alla fine leggo delle cifre che sono assurde per quello che è il nostro standard dell'anno scorso. Il grande colpo del mercato l'anno scorso fu Iturbe, pagato 25, 27, 28, non si è mai capito fra bonus e clausole varie, e adesso insomma siamo oggi, se non spendi almeno 25 milioni per un Bertolacci, mi passerà la battuta, adesso si sente uno sfigato e l'hanno pagato solo 20 milioni di previsione di mercato, adesso insomma la valutazione di Bertolacci a 20 milioni comincia a essere una valutazione senza offendere nessuno. Ma che scherzi, buonissimo giocatore, di 25 anzi. Milioni di anni, posso spendere anche 37-38 per conto piace, nel senso questo è un giocatore veramente che ha esordito in nazionale, fantastico. No, io non riesco a capire tanto, e spero che voi mi riuscite a dare una spiegazione, questo fatto di che la Fiorentina non vuole che Salah vada a una squadra italiana, no? Sì, Salah è un giocatore del Chelsea. Ma mai fatto. Punto, punto, punto. Io sono convinto che il Chelsea possa, è libero e deve e può vendere il giocatore a chi vuole. Poi se i rapporti si sono deteriorati tra la Fiorentina e l'Inter, io penso che il Chelsea in questo discorso c'entri poco. Quindi se l'Inter dovesse fare un'offerta che vada a soddisfare il Chelsea, io penso che il Chelsea non abbia nessun problema di darsi. Penso anch'io, credo che diciamo a parità o comunque nello stesso range di offerta sia più semplice che vada alla Roma piuttosto che all'Inter. Sì, per un discorso di rapporti, di iniziative legali che la Fiorentina ha già fatto capire che farebbe, insomma, queste robe qui di semplificazione pratica. Sì, perché anche trattativa. Solo la minaccia di un'avvertenza, esatto, alla FIFA, poi magari ti può ritardare, è bloccare, chiaro. Poi l'offerta passa, non torna un più. Un po' come i diritti d'immagine di De Laurentiis, ecco. Queste cose che bloccano improvvisamente. A proposito, Allan dovrebbe che firmare, deve fare a Astori, lunedì, presidente De Laurentiis, non si sa. Ci passi la battuta, ma che ruolo ha in mente per Astori, che diritti di nostro? Però Roberto, a me il Napoli piace tanto, quello il Napoli che sta venendo su, razionale, pragmatico, sicuramente più protetto e più equilibrato di quello di Benitez. Sì, io penso al Napoli come una squadra che deve risolvere dei problemi mentali più che tecnici e tattici, perché come tornerà Higuain? Punto di domanda. Come subiranno questo cambio di ruoli, come di metodo di gioco? Il Napoli e la Lazio in questo momento io li metto dietro alle squadre che ti ho detto. Poi però il Napoli e la Lazio sono sempre protagonisti, perché della Lazio non si parla mai. Però vero. Poi quando inizia il campionato la Lazio è sempre lì, sempre protagonista. Anche perché lo Tito fa una cosa che fa un po' meno notizia, cioè magari non fa il colpo da 40 milioni, però non vede. Però resiste a delle offerte da 30-40 milioni. Cioè, lui comunque l'ha fatto nel passato con Felipe Anderson, lo rifarà con Felipe Anderson, l'ha fatto con Candreva, lo fa quest'anno con Parolo e con Biglia o Biglia, se preferite. Insomma, voglio dire, se tu non prendi 30 milioni per Biglia e 20 per Parolo, è come se ne spendessi 50. No? Quindi no, la Lazio è molto interessante, il Napoli è molto interessante. Dai, il Napoli deve comprare un grande difensore. Napoli deve prendere un grande difensore, deve tenere Higuain e tenerlo motivato, e poi secondo me si può iscrivere a quella corsa lì, quella delle anti-Juve. Grazie Roberto. Grazie a voi. Ciao. Pier, ti vedo presto con piacere. Ma noi quando ci vediamo martedì? Lunedì no, cioè, ma tu pensi lunedì che è impossibile, lo sai, cioè, lunedì se poi ci vediamo andiamo a cena, ma non lunedì, no, lasciami chiedere, lunedì 27. Solo lunedì 27 ci vediamo, vabbè, ma sì, allora non ho questo spirito di sopportazione così mancano alto. Mancano ancora 10 giorni. Posso vederti una volta al mese, non di più. Prepara delle vivande tipiche piemontesi, non presentarti a mani vuote. Ciao a tutti. Finito. Ciao Roberto. 800 24 00 24, riusciamo a farne uno? Pietro da Milano, Pietro. Sì, buongiorno. Eccoci. Buongiorno, tifoso juventino. Prego. Allora, ma intanto non capivo come mai i tifosi juventini sono così delusi o quantomeno come dire hanno paura, perché alla fine obiettivamente due dei tre giocatori se ne volevano andare, Tevez e Pirlo. E poi obiettivamente Vidal credo che sotto rete quest'anno sia stato veramente deludente, quindi è un giocatore che secondo me ha raggiunto l'apice ed era il momento giusto. Sì, l'impressione è che la Juventus non si sia disperata, no, esatto, per aver ricevuto l'offerta del Bayern e aver saputo da Vidal che andava volentieri. Posso dire, l'offerta è buona, devo dire che alla luce dei prezzi di quest'anno forse è un po' meno buona. È pagato come Arda Turan, 40 milioni. Sì, di euro. Sì, vabbè, come Condobbia. Ci sta perché secondo me comunque Vidal è un giocatore che io credo ci sia la sensazione che abbia già raggiunto l'apice della carriera. Beh, la Juve l'ha spremuto, cioè lui si è spremuto molto e gli deve essere dato atto, insomma, quest'anno è stato il meno bello, però mi sembra complessivamente che sia stata una buona stagione alla fine anche questa, insomma, una stagione da 6.5 dopo una serie di stagioni eccezionali. Alessandro da Bologna. Alessandro. Sì, salve. Eccoci. Io sono tifoso juventino. Secondo me, tra i tifosi juventini, non solo tra di loro, ma anche tra di loro, è molto diffusa la categoria come quelli, non so, che vanno al cinema a vedere un film oggettivamente bello, un capolavoro, eccetera, però poi per paura di passare da incompetenti, da sempliciotti, così, si inventano critiche pur di dire qualcosa, come quello che ha telefonato ieri il primo, che ha detto che in una sua fantomatica griglia la Juventus era sotto che il Bayern e il Real Madrid, come se non avessimo eliminato Real Madrid e fatto una figura nettamente migliore contro il Barcellona di quella col Bayern. Sì, anche se si riparte da zero, e io credo che oggettivamente quest'anno davvero, se Agnelli dice l'obiettivo della Juve è entrare nelle prime otto d'Europa, cioè arrivare ai quarti, secondo me quest'anno non finge, perché poi i cicli vanno costruiti, bisogna anche dargli il tempo di maturare. C'è anche chi ha scritto ieri: stanno affondando, la nave affonda e scappano tutti. Sì. Perché il tifo Juve c'è di pensa tutto. Anche questo, c'è di tutto. 800 24 00 24, c'è la borsa convocato anche oggi alla mia età, oh. Seguiteci su Twitter @tutticonvocati. Tutti convocati. Il 10 ha sempre fatto sognare, è la maglia che vogliono i bambini, eccetera. È una maglia che però nella storia recente, dovendo essere assegnata in maniera permanente anno su anno, bisogna che trovi un giocatore che abbia le caratteristiche per portare una maglia come il 10 della Juventus al momento opportuno. È successo così un paio d'anni fa che non fu assegnata. Se non dovesse essere assegnata, non ne faremo una tragedia, perché la differenza in campo la fa la squadra tutta. Spazio per il tiro, lui la mette in mezzo, ancora Oscar, si gira, gran girata, e gol incredibile, gol incredibile. Sulla fine in fondo cerca il traversone, buono Götze! Se ne va con una magia, Felipe Anderson, che bellezza, il gol della Lazio, la firma di Felipe Anderson, è 1-0 all'Olimpico. Perché c'è anche Felipe Anderson, tra i papabili per la 10 del Juventus, anche se credo che lo Tito non lo venderà mai alla Juve. Allora, non per Isla e 25 milioni. Se mi chiedi, il livello di rapporti fra Lazio e Juve, credo sia, facendo un po' di così, un po' di dietrologia e di politica da corridoio, politica sportiva, tu poi ne sai più di me. Credo che, insomma, forse è l'inimicizia più profonda che c'è in questo momento. Credo pari a quella tra la Fiorentina e l'Inter. Sì, ecco, sì, la Lazio sta alla Juve come la Fiorentina sta all'Inter. Siamo dal punto di vista politico, ovviamente, poi i rapporti fra tifoserie sono magari diversi, eccetera, però a livello di società sicuramente non c'è grande benevolenza reciproca. E poi credo che di fondo lo Tito non voglia vendere Felipe Anderson. Io credo che la filosofia della Lazio di quest'anno, poi può piacere o può anche non piacere, sia quella di mantenere la stessa rosa, arrivare al preliminare e poi, se le cose dovessero andare bene, fare un ulteriore investimento con il tesoretto. Ci può anche stare, perché poi alla fine questa è una squadra che nella seconda parte della stagione scorsa ha avuto dei numeri pazzeschi, da secondi soltanto a quelli della Juve, nettamente la seconda forza del campionato nella seconda parte della stagione. Quindi se la Lazio riparte da lì e ritrova quella stessa brillantezza, sì, se la gioca, poi dipenderà molto dal sorteggio. Il 7 agosto è già un giorno, perché se giochi il Manchester è una cosa, giochi lo Sporting Lisbona, sì, con l'Ajax è un'altra. Dopo, a proposito di sorteggi, vi diciamo con chi è finita la Samp, e anche in proiezione, perché oggi la Lazio un po' può sorridere. Io però voglio sapere, perché io ho sempre nella testa quella domanda lì, 800 24 00 24, cioè se la Juve sia più forte o più debole, e sono rimasto sorpreso dalle risposte di ieri dei nostri amici. Allora abbiamo convocato Claudio Zuliani. Ciao Claudio. Ciao ragazzi, buona giornata a tutti. Per parlare, come va? Per parlare con te del ridimensionamento, signor della Juventus. Zuliani, come va? Grandissimo Pier, our way or no way, o state con noi o andate dove vi dico io. Sì. Everything, everything. Ah, questo qui è lo slogan della maglia. Ho ricevuto, esatto, la maglia. Vedi? Io me la sono comprata. Hai capito. Ieri curiosamente, siccome da un po' che non andavo in redazione, c'erano le due maglie, sì, posso dire, una di Nike e l'altra di Adidas, Juve e Roma, le ho viste lì, e quindi invitiamo le altre società. Ma no, scherzo, no, io non voglio fare l'accattone. Io poi le regalo tutte. Sì, bravo, tu le regali. Invece io ho un serio problema. Siccome devo cambiare tutto il guardaroba, perché abbiamo cambiato lo sponsor, certo, chi vuole le vecchie cose sono in vendita. Ma ti piace la nuova? Fa un po' Newcastle. Bellissima, bellissima. Mi piace la rosa da a me non piace il retro, vi dico la verità. Il retro della prima maglia così bianco, largo, non mi fa impazzire. L'Apollo, l'Apollo, l'Apollo d'allenamento rosa, bellissimo. All'Apollo, qui siamo, capito? Cioè, tipo il marsupio, l'hai preso il marsupio? Senti, invece la stilografica l'hai presa. Sì, Claudio, ti piace? Siccome Agnelli aveva detto che per la 10 serve un fenomeno, sì, allora Goethe ci vuole, ecco, e se invece fosse Draxler? Anche Draxler, però Draxler è un anno che giochicchia, non giochicchia, qualche problema. Sì, fisico, diciamo che ha saltato 5 mesi per un infortunio, non è la miglior presentazione. Bisognerebbe valutarlo, però bisogna dire che è ancora molto giovane, ha 21 anni, non che Goethe sia molto più vecchio, però senza quell'infortunio era tra gli under 21 papabili, diciamo, migliori, no, in circolazione fino all'anno fa. Draxler, adesso bisogna capire come sta fisicamente, però beh, quello potrebbe abbassare il prezzo. Goethe invece è uno che costa parecchio, mi sembra più di Vidal. Sì. Ma tu sei fin qui sei soddisfatto o sei deluso come qualcuno scrive? No, ma siamo al delirio dei 33 gradi, come lo chiamo io, durante il mese di luglio. L'anno prossimo sarà il delirio dei 34 gradi, evidentemente, ma quest'anno... Ah, scusa, me l'ho perso questo passaggio. Quindi, magari fossero 33 oggi. Oggi. Lo so, ma noi qua sono 33. Guarda, sai, magari lui è in montagna a 25. No, io uso questo sistema. Io sono a Milano in questo momento, esco, ce ne sono 38, allora vado in casa, metto l'aria condizionata e la blocco sul 33, così sono sereno e mi ricordo da dove vengo e dove arrivo. Allora, lancia un messaggio agli amici, ne abbiamo sentiti tanti preoccupati, arrabbiati. Lui, la Juve svende, va in Serie B, disastro. No, Serie B no, però. È incredibile, le milanesi sono 10 anni avanti. Allora, tutti questi signori tifosi della Juventus, ricordo che siccome non abbiamo più viti e bulloni per allargare il carro, poi a maggio, quando devono salire, non è che possiamo costruire, voglio dire, dei cacciatorpinieri, siamo sempre al solito. Diciamo la verità, però, che la più grande salita sul carro c'è stata l'anno scorso con Allegri. Questo sì, va detto, ma adesso ancora, lo dico con enorme rispetto, prima di tutto perché gente in contraddizione siamo i primi noi. Io mi sono contraddetto mille volte, nel senso che il calcio contraddice di settimana in settimana, quindi cambiare idea è assolutamente possibile. Però ecco, devo dire che l'anno scorso il livello di ferocia e di sfiducia con la quale era stato accolto Allegri, insomma, ha fatto un po' effetto questo. Allegri, no, ma il rischio c'è anche quest'anno. Però da qua a dire va via Conte, arriva Allegri, disastro. Da qua a dire va via Vidal dopo Pirlo e Tevez, disastro, secondo me c'è di mezzo una via di equilibrio che bisognerebbe perseguire anche quando si è tifosi. Cioè, è chiaro che al tifoso non gli frega niente dei soldi, del bilancio, della tecnica, dell'età e di tanti discorsi che si fanno, però un minimo, cioè, io ho letto dei commenti in queste 24 ore tipo: ecco perché noi non arriviamo in fondo in Champions League, perché facciamo andare via Tevez, Pirlo e Vidal. Ma dove siamo andati l'anno scorso? In finale, non mi ricordo male. No, ma allora, però questo secondo me... Io devo dire la verità, l'ascoltatore che ieri ci ha scritto, o meglio ci ha telefonato... Che fanno? Fermi tu. Fermi, chi è? Che suona il citofono, buona lady. soliti venditori nerazzurri. Aspetta che mi sposto. Zitta, che siamo in collegamento internazionale qua. Facciamo il collegamento col citofono, sentiamo chi è. Dai. No, stai buono, sono i soliti venditori, non perdiamo venditori, tempo. Va bene, non perdiamo tempo. E magari vendevano un trequartista, che ne sai? Adesso. Perché glielo chiedo. Magari era Oscar, era un venditore interista, era Mourinho. Secondo me ha ragione Agnelli quando parla dell'obiettivo quarti di finale, anche perché me lo ricordo, insomma, anche dalle esperienze rossonere, per esempio, di qualche anno fa. I quarti di finale sono spesso considerati dalle società il benchmark per fare break even. Qui Marco Bellinazzo mi sente più, cioè sì. il parametro attraverso il quale giudicare dal punto di vista finanziario sono una stagione. 60 milioni. Esatto, quindi secondo me Agnelli quando fa questo ragionamento fa un ragionamento ovviamente tecnico, ma fa anche un ragionamento strettamente economico. La Juve secondo me è chiaramente fra le prime 8 d'Europa, quest'anno è stata fra le prime 2 d'Europa, non c'è da discutere da questo punto di vista. Capisco pure che l'ascoltatore di ieri possa dire, secondo me ha ragione, che poi Barcellona, Real e Bayern probabilmente sono un pezzettino avanti, forse anche lo stesso Chelsea. Va bene, ma dal dire che Barcellona, ma puoi metterci anche il Chelsea o anche il Manchester, non è nessun problema. Agnelli non dice dobbiamo arrivare ai quarti, dice dobbiamo stare stabilmente in quel gruppo lì, ma infatti sì, stabilmente tra le prime. Che vuol dire non bisogna fare come il Borussia Dortmund, arrivare in finale e poi sparire, cioè, vuol dire che deve tornare la Juve, esatto, il protagonista. Poi puoi vincere, puoi non vincere, puoi arrivare in semifinale, ma non è un problema. Invece il disequilibrio del tifoso, in questo caso estivo bianconero, è quello. Cioè, Tevez e Pirlo, se non andavano via quest'estate, andavano via la prossima, si sapeva. Ma anche Vidal. E Vidal doveva già andare via l'anno scorso. Solo che il Manchester alla fine ha ritirato l'offerta all'ultimo momento proprio per quello che fa sto ragazzo fuori dal campo. Quindi ringraziate il Signore che qualcuno vi ha dato 40 milioni perché non lo vendevi più. E Vidal è un anno e mezzo che sta facendo disastri lontano dal campo e nell'ultimo anno anche in campo, mi sembra di ricordare. Ma qualcosina aveva fatto anche a Berlino, se vi ricordate, nei primi 10 minuti. Sì, sì. Sì, ho capito, ragazzi. Cioè, il Vidal che ho visto, che ha fatto 18 gol in stagione da centrocampista 2 anni fa, è un'altra cosa. Il Vidal dell'anno scorso, il Vidal reduce ormai da grossi problemi al ginocchio, da grossi problemi fuori campo, di cui quello che voi avete visto è soltanto il piccolo che è uscito, ma di episodi come quelli che avete visto ce ne sono almeno una cinquantina. Sì, ce ne sono tanti. Però anche questo scaricare Vidal adesso perché va al Bayern a me non fa impazzire. Però fermi tutti, tu stai lì Claudio, perché poi faremo un test in diretta per vedere se Zuliani li ha convinti, tifosi della Juventus. Prima però c'è il traffico. Dove sono tutti i gufi, i gufetti dei boschi? Erano appollaiati sopra i loro divani. Tutti convocati. Tutti convocati. Allora, facciamo il super test sui tifosi della Juventus, che ieri erano tutti pessimisti e arrabbiati. Oggi Claudio Zuliani gli ha spiegato che invece il futuro è radioso. Vediamo se li ha convinti. Maurizio dalla provincia di Cuneo. Ciao, grazie per la convocazione. Eccoci. Allora, io sono convinto che la Juve abbia fatto le mosse giuste anche quest'anno. Io sono un tifoso juventino da sempre e quest'anno ho seguito tutte le partite allo Juventus Stadium. Noi dobbiamo solo ringraziare Pirlo, Tevez, ma anche Vidal, su questo sono d'accordo con voi, non si può scaricare un giocatore che è stato determinante in questi 4 anni, quindi grazie per quello che ha fatto. Sono anche contento che abbia trovato un buon contratto al Bayern. Ma la Juve, secondo me, non si è, ha fatto una grande cosa, cioè quello di in anticipo dare via, o comunque lasciare che andassero via, i pezzi migliori, Tevez, Pirlo, che sono chiaramente stanchi, chiaramente a fine carriera. Ricordiamoci cosa ha fatto l'Inter, cosa ha fatto il Milan alla fine dei cicli, li ha portati avanti perché non voleva darli via, poi alla fine ha dovuto ricominciare da zero. La Juve invece ricomincia da qualcosa, Sturaro, ricordiamoci, Pereira, ha dei giovani, ha preso Dybala, non ha Asamo A che ha reinvestito, sta reinvestendo. Poi ovvio, sta riprendendo un ciclo, e non è detto che sia meno forte di Inter, Milan e company quest'anno, anzi io lo vedrei ancora leggermente superiore. Quindi secondo me ha fatto una grande cosa, quella di ricambiare prima che succedesse il disastro che succedette anni fa. Poi ovvio, oggi guardi sui giornali lo specchietto della formazione, dietro le due punte vedi Pereira, che pure, certo, che pure ha fatto un'ottima stagione, dubbio, e ti viene qualche dubbio. Claudio, c'è chi chiede, ha scritto al 349-238-6666 se ha il citofono era Gagliani. No, perché aveva i capelli. Davide da Pisa, Davide. Buongiorno, grazie per la convocazione. Eccoci. Dunque, io sono d'accordo al 200% con il vostro ospite in trasmissione, perché sono parole sacrosante. Cioè, non me ne sono dimenticato un mese fa, e non chissà quando, che i tifosi juventini erano a maledire Tevez e Pirlo perché erano tutti con la testa altrove e non erano più determinanti, erano vecchi da pattumare. Poi se ne vanno per loro scelta e la Juve signorilmente, e facendosi un favore, li agevola, adesso si sta affacciarsi le vesti. Abbiamo chi c'è di centravanti sul mercato meglio di Tevez oggettivamente, cioè, certo. O laggiù davanti ci metti CR7 e Messi, oppure punti su Dybala, cioè non è che ci sta tanto lontano. Sul mercato potevi anche, togliendo Ronaldo e Messi, potevi anche prendere Aguero, per dire, cioè adesso non esageriamo. Sì, però hai preso male. No, cioè, hai preso un grande giocatore che qui, Qui non se lo fila nessuno, Mandžukić. Mandžukić è fortissimo. Cioè, Mandžukić è un giocatore che l'anno scorso ha preso a 25 milioni di euro, che all'Atletico Madrid non ha fatto benissimo, ma questa io la vedo soltanto come un'opportunità. È uno che negli anni con il Bayern ha fatto 15 gol un anno, 18 l'anno dopo, ne ha fatti 12 l'anno scorso, senza, in una stagione non straordinaria, 20 in assoluto. È uno che nelle ultime tre stagioni ha fatto 68 gol. Tre stagioni, 68 gol col Bayern e con l'Atletico Madrid. Sì, ha questa particolare. Ma di che stiamo parlando? No, ma i tifosi della Juve se lo dovrebbero anche ricordare bene, perché quando siamo usciti con il Bayern, tra l'altro, panchina, lui ha segnato. Hai ragione. Sì, ha questa particolarità che è il primo attaccante, vero, memoria, no, d'uomo, che se ne va dall'Atletico pagato meno di quanto l'Atletico l'ha pagato. Meno male. No, ma infatti, in effetti, la gente dice: ma mica penseremo di sostituire Tevez con Zaza e Dybala? Cioè, Mandžukić non se lo fila nessuno, sembra che non sia arrivato. Sì, posso farti l'ultima domanda prima di salutarti? In tutta onestà, chi ti fa più paura oggi tra Roma, Napoli, Inter e Milan? E Lazio. Mettiamoci anche la Lazio. La Lazio. Sì, perché dobbiamo fare la Supercoppa all'8 agosto. No, ma io parlavo proiettandoti sul campionato. Ah, scusa, ma il campionato non lo considero, l'abbiamo già vinto, il quinto di fila già è del bacheca. Registrato. Hai dubbi? Ma insomma, no. Vorremmo averli, giusto perché abbiamo avanti 10 mesi di campionato. Voi vorreste averli, però purtroppo. No, io penso che bisogna aspettare la fine del mercato. In questo momento la Juve è ancora avanti. Secondo me quest'anno lo vince ancora la Juve. Secondo me sì. E fra l'altro, se lo vince quest'anno, cioè tendenzialmente questo è l'anno in cui la Juve potrebbe anche fare un investimento, appunto, una scelta di rimescolare un po' le carte e di ringiovanire per durare a lungo. Quindi questo è l'anno nel quale paradossalmente rischia di più. Guarda, scusa Pier, attenzione, noi su Dybala stiamo solo parlando dei soldi, ma con tutti quelli, io ho visto 5-6 partite del Palermo l'anno scorso, quindi non mi permetto di giudicare, ma tutti quelli con cui parlo, che seguono Dybala da 3 anni, mi dicono, poi sai benissimo che nel calcio può essere che una promessa e fallisce, certo, ma tutti mi dicono che sarà un giocatore tra i migliori al mondo. Però ti dicono anche che lui è esploso da prima punta unica, che è un ruolo che nella Juve non esiste. Perché sì, è anche vero questo. Il trequartista da giovane, per esempio. Sì, ma io ho l'impressione che lui farà un'altra cosa. La prima punta. Ecco, lui farà deve la fare prima quello punta che ha fatto Morata quest'anno, cioè partire di rincorsa, non da titolare, ma farsi trovare pronto. Credo che sia questo il destino. Grazie, Claudio. Grazie ragazzi, buon 33 a tutti. Sì. Grazie Claudio Zuliani. Non molla niente Zuliani, no, è proprio assolutamente. In clima pure d'estate è così. 800 24 00 24. Fra le mode dell'estate, quella che ha incuriosito un po' tutti, ieri c'erano delle immagini meravigliose twittate dal Napoli, del drone sugli allenamenti di Sarri. C'è però qualcuno che la pensa diversamente, te lo faccio sentire. Mi ha fatto prendere un po' paura, perché a un certo punto stava venendo verso la tribuna e abbiamo detto: se sbagliano a comandarlo, cioè, è un po' un mostriciattolo, no, quando è in aria. Beh, un avvento tecnologico moderno che non sostituisce quello che già usavamo 10, 15, 20 anni fa, però è l'evoluzione tecnologica, quindi abbiamo di quello che usavamo, quindi la ripetitività di vedere degli allenamenti con degli strumenti moderni, più facili da usare, più pratici. Questo Alberto Cavasin è anche un po' una moda, questa dei droni. Sì, è anche utile, che non sappiamo, però, mi ci metto anch'io, non si sa cosa scrivere adesso, cioè, insomma, diciamoci la verità, noi abbiamo 3 quotidiani sportivi nazionali, abbiamo ormai 2 canali H24, anzi 3, che parlano tutti i giorni 24 ore su 24 di calcio essenzialmente, poi anche di altri sport. Abbiamo programmi come il nostro, si parla tanto di calcio, e quindi in questi giorni, in quest'anno dispari, nel quale il mercato ci sta facendo divertire, per carità, ma insomma ci sono i responsabili dei giornali che qualcosa devono mettere in pagina, e le notizie arrivano dai ritiri, in qualche modo qualche curiosità la destano. Ma io mi ricordo qualche anno fa, per dirti, Luis Enrique, che quindi parliamo del 2011-2012, forse sì, che insomma, tutti parlavano dell'iPad di Luis Enrique. C'era un periodo che si parlava soltanto del fatto che Luis Enrique avesse l'iPad durante gli allenamenti, che è un oggetto insomma adesso ormai abbastanza nell'uso comune. E quest'anno, per esempio, alla Roma si parla molto di questo nuovo preparatore, che non è andato in Australia. A Napoli si parla del drone ormai come del tema fondamentale. Quindi secondo me ci si attacca a quello che si ha di notiziabile. Come allora io vi do una notizia, perché oggi mi hanno chiamato degli amici napoletani. Oggi il drone di Sarri ha avuto un altro infortunio, è atterrato male, è il secondo infortunio in una settimana. Grave. Mi ricorda l'Aquila Olimpia, che c'era un periodo che sbagliava curva, c'era un po' di casini, anche se poi la squadra in campo non ne risentiva. C'è il GR, noi ci fermiamo, torniamo subito dopo. C'è già Alberto da Parma che richiamiamo, sarà il primo da cui ripartiamo. 800 24 00 24 e poi cerchiamo anche di prepararvi una bella sorpresa. Non avete niente altro da fare? Buongiorno a tutti. Tutti convocati. Diceva Einstein, è più facile spezzare un atomo che un pregiudizio. Indovina chi viene a cena, si occupa di identità e preconcetti, in cucina come negli incontri che facciamo. Ogni settimana ospitiamo un italiano con radici altrove che racconterà la sua storia anche attraverso un piatto. Fra couscous e risotto intorno ai fornelli si parlerà di contaminazioni e false credenze verso il cibo e non solo. You've got to... Sono Valentina Furlanetto e vi aspetto ogni sabato alle 23 con Indovina chi viene a cena. E quest'estate anche la domenica alle 13.30. I nasi elettronici, il contaapi, i droni che sorvolano i campi. Ma anche la cottura in lavapiatti. O le fragole sospese. E internet fra i vigneti. E il pomodoro nero. Questo è Food Lab, il programma che vi racconta le tecnologie per il cibo del futuro. Federico Pedrocchi. Chiara Albicocco. Vi aspettiamo tutti i sabati alle 15 e domenica alle 7.10 del mattino qui a Radio 24. Convocati. Intanto ci segnala l'ottimo Giorgio De Luca che per la 20ª volta nell'ultima settimana all'AN è fatta al Napoli. Si attendono come solo le firme. Come dice Alessandro, Milan è la 57ª settimana consecutiva per l'abolizione delle province. Sì, un po' la stessa decisiva cosa. Per l'acquisto è di Allan. Esatto, per Astoria abbiamo perso il conteggio, però siamo qui. Magari entro le 15.30 arriva qualche notizia. 800 24 00 24. Facciamo il nostro giro per i ritiri. Partiamo dal Sassuolo, Acerbi. Sai, dipende solo da noi, perché comunque la squadra c'è e dipende solo la nostra voglia, la nostra determinazione, anche un pizzico comunque di fortuna che non guasta mai. Ce l'hai detto più volte, anche per un fatto di riscatto personale, per come è andata al Milan, tu prima o poi te la vuoi rigiocare un'opportunità in una grande squadra. A che punto sei in quel percorso lì? L'anno scorso è stato un buonissimo anno, comunque di transizione, e ovvio cerco sempre di migliorarmi, devo e voglio. Ho grossi obiettivi e da lì non si sposta nessuno. Il nome di Acerbi che è stato fatto anche per il Napoli, se sì. Astori non si mette d'accordo con De Laurentiis a pagina 39 Tonelli, Acerbi, Astori, sì. Tonelli, sì, Acerbi, sì. Astori, chissà. Onestamente nessuno di questi mi sembra il difensore in grado di far fare il salto di qualità definitivo al Napoli. No, Napoli di più di Bartra, c'è anche questo nome, sì, che gira del Barcellona, sì. Oggi è il compleanno di Mandorlini. Eccolo, compleanno di Mandorlini. È un problema, quindi comincio a essere fortunato fin dall'inizio. Quindi oggi non ho problemi di abbondanza, no, di là delle battute. Beh, Paolo, ha fatto bene, è un po' carico del lavoro, insomma, si vede, però già trovare il gol anche in queste amichevoli, che sia importante per tutti gli attaccanti, anche per gli altri. Potranno giocare insieme, potranno giocare da soli. Paolo lo conosco bene, quindi credo che i problemi siano più che altro per gli avversari. Io dovrò trovare il modo di trovare l'equilibrio generale, che è la cosa che conta di più al di là dei singoli. Voto al mercato del Verona, ce lo chiedono anche degli amici, via SMS. Mi sembra buono fino a questo momento. Io credo molto in Pazzini, perché secondo me Pazzini ha ancora delle cose da offrire. Paradossalmente il fatto di essere stato impiegato poco nelle ultime due stagioni potrebbe portare ad aver tenuto delle energie per la parte finale della carriera. Poi ragazzi, 30 anni, cioè non è un giocatore finito, anche se sappiamo che per gli attaccanti ovviamente giocandosi molto tutto in quella frazione di secondo ci può essere una, no, il tempo può pesare. Mm. Un conto a fare il portiere a 35 anni, un conto a fare l'attaccante. Sì, anche se c'è l'esempio di Tony, sì, io, semmai Tony perplessità... è l'eccezione, conferma lei, certo. Ce l'ho sulla convivenza, Tony Pazzini. Cioè, Pazzini è un giocatore che quando ha incrociato altre prime punte pesanti in carriera ha sempre fatto un po' fatica a ritagliarsi uno secondo spazio. Secondo me è una fase diversa, è una fase più compiuta, più serena. Io un po' il pazzo lo conosco, credo che lui adesso stia bene. Credo che stia bene, credo che ci sia rimasto male perché con Inzaghi il rapporto non è mai decollato ed è un paradosso perché Inzaghi è stato un attaccante strepitoso e perché a Milan le cose non funzionavano, insomma. Poi va anche detto che se Pazzini avesse avuto, è amico mio, ma insomma, se avesse avuto un rendimento clamoroso la differenza l'avrebbe fatta, quindi ci sono anche delle sue responsabilità, ci sono state anche le sue infortuni, insomma. Francamente non mi sembra mi sembra una buona opportunità. Ecco, Verona mi sembra il posto ideale per poter ripartire. Mm. Andiamo invece a Frosinone, Diakité. Ho la possibilità di rimettermi in gioco, non vedo l'ora e sono contento di essere qui. Chiaro che ora che hanno raggiunto la Serie A, adesso faremo di tutto per cercare di rimanerci. Quindi questo entusiasmo cercheremo di usarlo in modo positivo. Dobbiamo essere un gruppo forte e tutti insieme faremo bene. Alberto da Parma, 800 24 00 24, vi ricordo che le convocazioni sono aperte fino alle 15:30. Alberto. Sì, buongiorno. Eccoci. Volevo dire questa cosa. Secondo me la Juventus va bene, fa i suoi programmi, giustamente, cerca di ringiovanire la squadra, è ok. Però perdere questa squadra, Vidal e Tevez, che sono due cagnacci, due che corrono dietro il pallone, che seguono il calciatore anche fuori dallo stadio, dietro con quel carattere lì, non ce ne sono tanti, Primo. Secondo me è ora di smettere di dire puntiamo agli ottavi di finale, ai quarti di finale, o torniamo alla Juve di una volta. Noi puntiamo per vincere. Questa storia qua di stare, cioè siamo arrivati in finale lì. Secondo me Alberto valeva l'anno scorso, io l'ho detto in tempi non sospetti che la Juve bleffava. Però se tu parti con un progetto nuovo, tu parti, ci sta che l'anno prossimo. Guarda, insomma, l'ha detta benissimo Giuliani. Il punto è che la Champions, se il calcio è liquido, la Champions è proprio gassosa, è ancora più liquida, nel senso che la Champions è appesa veramente a un episodio, a una partita, a una situazione. Quindi quello che Agnelli dice, secondo me, giustamente, è che l'obiettivo della Juve di questi anni è consolidarsi come una delle regine del calcio europeo. Poi è ovvio che un anno ti può andare meglio e arrivi in finale, magari la vinci pure, un anno ti può andare peggio e magari esci nei quarti di finale, ma riportare la Juve in questa elite, visto che ormai poi sono sempre i soliti noti, no? Il Barcellona, il Real Madrid, il Chelsea, il Bayern, sono 5-6 squadre, che il Paris Saint Germain, anche se non ha ancora centrato mai una finale e neanche una semifinale, credo. Cioè, però ecco, siamo l'obiettivo è quello, l'obiettivo sì. È assolutamente quello e secondo me è condivisibile. Facciamo un momento a Marcord. Certo, facciamo. Allora, tu mi devi dire, e invito anche gli amici da casa, dove eravate la sera del 17 luglio di 21 anni fa, quando Roberto. Alto, il campionato del mondo è finito, lo vince il Brasile ai calci di rigore e naturalmente è una conclusione che ci lascia con grande amarezza. Non meritavano di perdere così ai calci di rigore una partita nella quale hanno esibito uno straordinario coraggio, un grande temperamento, hanno saputo far fronte a tutte le avversità, hanno saputo controllare avversari più freschi, partiti con il favore del pronostico. Il Brasile ci ha battuto, ma solo ai calci di rigore. Sembrava contento. Tu dove eri? Io ero con degli amici a Roma a vedere la partita. C'era Riccardo Faggi, forse a casa di Maria Luisa Castellani, mia compagna di classe dei tempi. Cioè, no, ma sai perché l'abbiamo rispolverata questa cosa? Era 1994. E quindi non andavo più a scuola. Ci è venuta in mente, questa mattina quando abbiamo letto la notizia della morte di Alcide Ghigia. Perché? Il maracanasso. Perché Baggio, che è stato un campione straordinario, ha perso il suo attimo fuggente, quello che l'avrebbe consegnato all'immortalità, e invece Ghigia no. Ghigia è un uomo che quel giorno al Maracanà il suo attimo l'ha afferrato. Insomma, Ghigia è quello che mise zitto 199.000 persone al Maracanà. Esatto, lui, Frank Sinatra e il Papa. Papa. Sono i tre. Devo dirti che il calcio in questo è strano, perché Caristeas, per esempio, che non è esattamente, insomma, è l'uomo che ha fatto ridere i greci nel 2004 e piangere i portoghesi. Cioè non esiste una correlazione, una proporzionalità diretta fra il talento dei giocatori e quello che vincono. Tra l'altro leggevo questa notte che Ghigia in nazionale ha giocato 12 partite e ha fatto 4 gol, cioè non uno che ha fatto una carriera straordinaria. Ma infatti è l'attimo fuggente, ed è da questo punto di vista sicuramente uno sport unico, nel senso che poi alla fine gli appuntamenti internazionali sono ogni 4 anni, se vuoi ogni 2 anni, se ci metti dentro anche gli europei. Lo sport di per sé è uno sport di episodi, quindi è uno sport di poche situazioni che possono decidere, e quindi la possibilità di, certo, se non sei bravo non diventi mai Ghigia o Caristeas o non lo so, decidi tu chi, però sicuramente esiste una componente. Esisteranno giocatori che non hanno vinto la Champions League che sono stati magnifici, ed altri che invece magari l'hanno vinto. Me ne viene in mente uno, Ibrahimovic Nedved, per esempio. Esatto. Guarda, gli amici qui scrivono: io ero al cinema nella caserma dell'aeronautica di Ghedi, uno era al mare a Viserba, aveva 15 anni, ma in quella vacanza conobbe sua moglie. Ma la più grande rosicata della vostra storia per quanto riguarda la nazionale qual è? Adesso apro questo dibattito, perché nel 94 io ho rosicato, ma non così tanto come ad esempio nel 2000 a Rotterdam, che sì, è stata una cosa che mi ha fatto fastidio, proprio diede fastidio, un po' perché ero lì e questo credo abbia inciso abbastanza. Però ecco, il 94 sì, beh, doloroso sicuramente, anche se eravamo andati avanti. Era una nazionale un po' antipatica, lo possiamo dire, cioè qualcuno l'ha anche scritto, la nazionale di Sacchi non era amatissima da tutti gli italiani. Questi signori, vorrei capire chi non è meglio orchestri. No, era antipatica. No, non era, siamo sinceri, non era una nazionale in partenza amatissima da tutti, era una nazionale che divideva, perché Sacchi era un personaggio, ed è ancora, perché forse era anche, adesso va alla memoria, spero di non dire errore, era anche una fase molto berlusconiana, credo, politicamente, quindi aveva un valore, sì, perché poi il Milan aveva appena vinto la Champions League ad Atene nel 94, quella squadra sì, no, poi questo ci può stare. Detto questo, a me quella nazionale mi stava simpaticissima come tutte le altre nazionali della storia. Nella sua cavalcata abbiamo avuto degli episodi fortunati, per esempio contro la Nigeria, o comunque dei passaggi molto positivi, e quindi questo forse alla fine, non lo so, io ho rosicato di più nel 2000, però sì, o nel 90, ecco, nel 90 ho rosicato di più. Sai che sta simpaticissimo e unisce tutti trasversalmente? Ivan Basso. Vabbè, certo. Ciao Ivan. Buongiorno a tutti. Come va? Bene, grazie, bene. Posso dire bene perché sono a casa e sono stati gli ultimi giorni un po' particolari, però adesso sono molto più tranquillo e niente. Guarda, noi siamo sorpresi, io, ma credo Pier, Carlo, che insomma oggi non è qui, sorpresi favorevolmente dalla serenità che abbiamo visto un po' in tutte le parole che abbiamo anche ascoltato di questi giorni. Ma sono sicuramente... È stato un momento molto particolare, perché io pochi giorni fa ero al tour e mi sono trovato in ospedale pochi giorni dopo con un'operazione. Quindi è stato un cambio di emozioni continuo, ma ho sempre cercato di mantenere l'ottimismo, il sorriso e la serenità, perché è la cosa migliore per superare ogni difficoltà. Questo è per carattere e anche ovviamente grazie al sostegno che ho ricevuto da parte di tutti. Questo ovviamente aiuta molto per mantenere quel senso di fiducia in se stessi, che poi in situazioni di questo tipo fa la differenza. Che si impara, Ivan, da una cosa del genere? Nel senso, mi verrebbe banalmente da pensare che magari poi di fronte a queste cose te ne frega un po' meno della prossima tappa, degli indici di borsa, delle soddisfazioni professionali, delle tante minchiate che affollano la nostra vita e che ci regalano delle gioie o delle depressioni improvvise. Poi arriva una cosa del genere e forse, insomma, ti fai altre domande, no? Ma questo è ovvio, che la salute è la prima cosa, ma questo non vale solo per chi poi è coinvolto direttamente. Lo dimostra il fatto da come ha reagito il mondo del ciclismo, quindi se parliamo proprio per la domanda che mi avete fatto, il mondo del ciclismo ha reagito con unito e in sostegno a me da parte di tutti. Quindi questo dimostra che quando c'è un problema di questo tipo, la priorità assoluta è nella salute. Dimostra anche un'altra cosa, che il ciclismo è fatto di persone per bene, di persone che lottano ogni giorno per battersi a vicenda in una gara come il Tour, però quando c'è un problema più grande che va al di là dello sport, il mondo del ciclismo è unito e tutti ovviamente portano il loro sostegno per la persona che credo Ivan, che non sia solo il mondo del ciclismo, credo che, spero che insomma tu in queste ore ti sia reso conto della... No, certo, no, no? Parlavo no, cioè, hai fatto benissimo, perché era però dico la domanda che mi ha fatto, però il sostegno è arrivato da parte di tutti, nessuno escluso. Ho detto ciclismo perché ero al tour, però è ovvio che ho tanto affetto da parte di tutti, ma questo vale per me, ma vale credo per tutte le persone che sono colpite da problemi di salute. Questa certo. È una regola generale che vale per tutti. Ma oggi c'è spazio per te per pensare di tornare in bicicletta o è un pensiero ancora lontano? Ma in questo momento il primo pensiero è cercare di... Io sono uscito dall'ospedale ieri, quindi c'è un decorso, stiamo aspettando ancora alcuni esiti. Il professor Montorsi ha la situazione sotto controllo giorno dopo giorno e non abbiamo ovviamente parlato di un rientro, di un inizio non solo di un rientro agonistico, ma anche di un inizio proprio per riprendere la bicicletta. Non è ovviamente prematuro, e allo stesso tempo con i dirigenti della Tinkoff Saxo, con il nostro patron Tinkoff, con Stefano Feltrin, abbiamo parlato di quello che può essere lo scenario futuro, ma non è in questo momento opportuno parlare di quello, proprio perché c'è una priorità assoluta mia e della società per la mia salute. Quindi nel momento in cui abbiamo la conferma che tutto è a posto e che io posso iniziare a pensare ancora a livello professionale, abbiamo un paio di idee su come procedere, però è prematuro. Questo lo decideremo nelle prossime settimane. Ho letto che vorresti andare a Parigi domenica, credo, a festeggiare Froome, mi sembra, e poi ti salutiamo congelato il Tour de France. Ma il tour non è ancora finito. Froome in questo momento ha dimostrato di avere ovviamente qualcosa in più rispetto agli altri. Ha corso benissimo la prima parte, nel primo arrivo in salita è stato nettamente il più forte, però avete visto che nel secondo arrivo in salita di ieri le cose sono già cambiate, nel senso che le forze, ovvio, ha un vantaggio importante, però gli antagonisti sono sicuramente stati più bravi rispetto al primo arrivo in salita. Io credo che c'è ancora spazio per tenere aperto questo tour. È ovvio che possono cambiare le cose non solo per i meriti degli antagonisti di Froome, ma per eventuali suoi demeriti, perché è ovvio che se lui continua ad andare così diventa complicato recuperare lo svantaggio. Diventa assolutamente però difficile. Il tour non è una corsa qualunque, il tour è il tour, e quindi per il tour i campioni che sono dietro Froome lotteranno anche per un piazzamento, perché al tour vale anche quello, quindi sarà un bel tour fino alla fine, proprio perché ci sarà una lotta anche per i piazzamenti dietro la maglia gialla. Mai mollare, grazie Ivan. Forza. Grazie a voi, buon pomeriggio. Dai. Grazie ad Ivan Basso. Bocca al lupo. Ciao. Grazie. Ivan, io devo chiedere scusa a Sebastiano, Leonardo, Maurizio e Davide. Mazza, oh. Magari ripartiamo da loro lunedì. Fatto. No, però devo dirti che gli amici da casa hanno segnato due rosicate che superano tutte. L'uscita sbagliata di Zenga Italia 90, esatto, che portò esatto un'intera nazione a tifare per la Germania. Io ho rosicato più nel 90 che nel 94, anche e se poi Corea 2002. Sì, anche se, sì, vabbè, sì, però eravamo lontani dal traguardo, però sì, 2002 è stato vabbè, un furto, lo scasso, quindi va bene, lo prendiamo. 90, per me il 2000 non si batte. 2000, 20 secondi dalla fine, quella finale lì, 1-0 contro i francesi, vabbè, ma nel 2006 ci siamo rifatti. Ci fermiamo qui, dai, ci fermiamo qui. Io ringrazio Giorgio De Luca, autore di questa puntata, Giovanni Melchiori in redazione, Paolo Corleone in regia, Pierluigi Pardo, Carlo Genta, insomma, torniamo lunedì dopo il GR, dopo le 14. Ciao! Ciao! Ciao! Ciao Luigi, ciao Pierluigi, ciao a tutti e due.